Carro. Máquina. Alquiler de carros. Auto noleggio. Quiero alquilar un carro por una semana. Vorrei noleggiare una macchina per una settimana. Quiero asegurarlo a todo riesgo. Vorrei assicurarla per tutti i rischi. ¿Dónde hay una gasolinera? Dove posso trovare una stazione di servizio? Taxi. Taxi. Necesito un taxi a las 3. Avrei bisogno di un taxi alle 3 di pomeriggio. Voy a... Mi porta a... Por favor, deténgase aquí. Per favore, fermi qui. ¿Cuánto cuesta un taxi al aeropuerto? ¿Cuánto costa un taxi al aeropuerto? Se desinfló un caucho. Si è sgonfiato un neumatico. Tome la... Prenda la... Autopista. Autostrada. Avenida. Viale. Calle. Strada. Carretera. Strada provinciale. En la esquina. All'angolo. Cruce a la derecha. Giri a destra. Cruce a la izquierda. Giri a sinistra. Siga recto. Sempre dritto. Deténgase. Si fermi.